Siamo con Luca Raffaelli, direttore artistico della Città Incantata 2018, quarto meeting internazionale dei disegnatori che salvano il mondo a Civita di Bagnoregio, provincia di Viterbo, dall'8 al 10 giugno. Luca, ben trovato. Ciao, buongiorno. Ci racconti? E racconto sì, dunque ci sono tante cose da raccontare, partendo dal fatto che a Civita di Bagnoregio ci sarà molta plastilina quest'anno, a cominciare dal fatto che la masterclass che ormai tradizionalmente inaugura la manifestazione venerdì alle 17 è del grandissimo Peter Lord, il creatore dell'Artman Animation, lo studio di Bristol di Wallace & Gromit, Gallina in fuga, I primitivi di Shaun la pecora, e insomma tutti i personaggi creati in plastilina, e lui spiegherà proprio questa tecnica, come si fanno a creare i personaggi, come si fanno ad animare in film che poi vengono distribuiti e hanno successo in tutto il mondo. La sera avremo la proiezione dei primitivi e poi la presentazione su grande schermo a Bagnoregio di tutte le iniziative che si svolgeranno tra sabato e domenica, quando la manifestazione si chiuderà alle 13. Comincio a dire qualche grande evento? Beh sì, raccontaci un po' come sono strutturate le giornate. Allora, le giornate sono, in pratica la giornata di sabato vede un sacco di ospiti che si confronteranno di fronte al pubblico raccontando la diversità del proprio stile, del proprio lavoro, della propria tecnica, perché avremo animatori appunto di plastilina che dialogheranno con autori di fumetti, storyboarder che parleranno con creatori di personaggi disegnati, insomma. Tutte le differenze artistiche che si incontrano e che secondo la filosofia di questa manifestazione salvano il mondo. E in particolare poi a mezzogiorno c'è una masterclass, chiamiamola così, di Sergio Staino, che racconterà la gioia, una gioia molto particolare. Lui ha scoperto che avrebbe perso la vista alcuni anni fa, ormai un bel po' di anni fa. E nonostante questa tragedia personale ha continuato a disegnare sempre meglio, e trovando sempre diversi strumenti per poter continuare a disegnare, che è proprio una sua necessità vitale. Il racconto che fa Sergio è veramente molto commovente. Mentre alle 17 abbiamo un evento dedicato a Ilaria Alpi, questa coraggiosissima giornalista. Coraggio è stato omaggiato da un fumetto e da un cartone animato tutto di produzione italiana diretto da Marco Giolo. Avremo naturalmente lo sceneggiatore del fumetto e il creatore del cartone animato, insieme a Maurizio Torrealta, un giornalista che ha conosciuto bene Ilaria Alpi e che potrà parlare naturalmente di lei e della sua figura e anche del fumetto e del cartone animato e di come questi sono riusciti a parlare del suo coraggio e della sua vita. Poi abbiamo tanti altri ospiti, da Fusako Yosaki, che cominciò a lavorare la plastilina fin dall'epoca dei Carosello di Ferdinand Branca, Kelly Kugel, che viene da New York per raccontarci i suoi film, in particolare l'ultimo suo film, un film autobiografico, quasi un graphic novel, un film di 25 minuti in cui racconta se stessa. E poi tantissimi, tantissimi veramente disegnatori fumettisti, cui elenco naturalmente potete Certo. trovare sul nostro sito web lacittàincantata.it. Com'era nato tutto? Era nato tutto dall'idea della Regione Lazio di fare un festival dell'animazione a Civita di Bagnoregio, e un festival dell'animazione siamo riusciti a fare, nonostante la difficoltà di un luogo che è Civita di Bagnoregio, che non ha grandi sale cinematografiche, anzi no, non ce l'ha fatto. Ce ne ha poche anche piccole, a dir la verità, quelle che adattiamo. Però quest'anno avremo una grande novità, che è quella di uno schermo in piazza, uno schermo, una LED wall che si può vedere quindi anche di giorno, in cui naturalmente si potranno vedere anche i film dell'Artman, i film, si potranno potrà vedere Somalia 94, il film dedicato a Ilaria Alpi, mentre all'interno del sale del museo di Palazzo Alemanni ci saranno appunto gli incontri con le differenti artisti che si incontrano. Un altro appuntamento importante che è stato organizzato da Roma Lazio Film Commission è che alle 15 di sabato gli aspiranti realizzatori di cartoni animati, disegnatori, sceneggiatori possono andare a parlare con le produzioni, le più importanti produzioni di cartoni animati in Italia. C'è la piazza, diciamo, appena secondaria accanto alla chiesa di Civita di Bagnoregio, che appunto ospiterà questo incontro. È un incontro, come dire, professionale, e ci si può iscrivere sul sito della Roma Lazio Film Commission. Un'ultima curiosità: come mai questa definizione dei disegnatori che salvano il mondo? Da una parte perché Civita di Bagnoregio va salvata, era soprannominata la città che muore perché c'è questo lento cadere della terra, per cui appunto Civita di Bagnoregio sembra un'isola sospesa nel vuoto, e quindi bisogna salvarla, e grazie all'impegno della Regione Lazio sta per diventare, lo speriamo presto, patrimonio dell'UNESCO, ma tutto il festival proprio vuole salvare Civita di Bagnoregio e il mondo tramite proprio l'unione delle diversità. Se le diversità creano, no, possono creare tanti problemi nella vita, nell'arte le diversità sono fondamentali, perché tramite l'unione di idee diverse si arriva poi all'idea migliore possibile. Tramite l'unione di sceneggiatori e disegnatori si arriva a fare un fumetto, un film d'animazione, ma spesso anche tramite grazie all'unione e al lavoro collettivo di personalità che hanno stili diversi, tecniche diverse, si riesce poi a creare delle collaborazioni illuminanti. Tutto questo è proprio nel segno della nostra manifestazione, che vedrà peraltro la collaborazione in arte, in disegno, la realizzazione di opere durante tutta la manifestazione e di opere collettive, proprio a dimostrazione che l'arte può salvare il mondo creando delle armonie meravigliose. Benissimo. Allora ricordiamo la Città Incantata 2018, quarto meeting internazionale dei disegnatori che salvano il mondo a Civita di Bagnoregio, in provincia di Viterbo, dall'8 al 10 giugno. Un saluto e un ringraziamento al direttore Luca Raffaelli. Un abbraccio, a risentirci presto, Luca. Grazie e arrivederci a Civita di Bagnoregio, spero. Ok, a presto. Grazie, ciao.